cammino e passato i nemici, il fur fantaccio. Comulgo Brunswick, pit, trepidi peste, il vecchio lupadare dell'Europa tutta, contra si stando, oh, rappresentiam l'immagin della patria. Nessun si muove, che la ghigliottina ripassi ad ognun la testa e la coscienza. Ricordo te, non te, un anello, un gran cielo, in un premio. Volontariamente penso e credo e sa noi verrà. No, non verrà. Mi nasconde monellizzati. No, i soliti strilloni. Queste grida arriveranno a lei. Ebbene. Dunque, and Precenie segnato a già fu pietan vile, il fato suo è fisso, oggi o domani. No, è vile, è vile. Come vola il tempo, affollan già le vie. Nemico della patria, e vecchia fiaba che beatamente ancor la vede in po'. Nato a Costantinopoli, straniero, studio sensir, soldato, traditore, idi mories un complice, e poeta, sovvertitor di cuori e di costumi. santo grillo. Io odio volevo le core, e chi così m'ha reso fiero a ironia. E l'amor, sol voto, ecco la padrone, senso, bugia tutto. Oh! salvarlo. Penna arma feroce contro gli ipocriti. ipocriti. Con la mia voce ho cantato la patria. Passa la vita mia come una bianca vela, e là in cielo le antenne al sole che le indora e affonda la spumante prora nell'azzurro del mondo. Va la mia nave spinta dalla sorte alla scogliera bianca della morte. Son giunto sia, ma poppa io salvo e una bandiera trionfale colgo i venti, e su vi è scritto patria. Testimoni, datemi il passo. Parlo, Gerardo, ben. Parla. Atto d'accusa e orribile menzogna. Se tu l'hai scritto, ho denunziato il falso e lo confesso. Mi e faccio queste accuse e le rinnovo. Ma tu è una viltà. Forte! Forte!